Replay. Per la serie Replay riproponiamo questa sera il secondo di quattro incontri ideati e moderati dal critico, conduttore televisivo e giornalista Philippe Daverio sul tema della creatività. Un ciclo di incontri realizzati con la collaborazione del Sole 24 Ore, che Radio 24 ritrasmetterà in sintesi nei giorni seguenti al loro svolgimento. In questo replay riascoltiamo il dibattito sul tema pensare e speculare, che si è svolto ieri sera a Milano. Sul palco, oltre a Philippe Daverio, l'imprenditore Bernardo Caprotti, l'artista Michelangelo Pistoletto e il direttore del Sole 24 Ore, Ferruccio De Bortoli. Partiamo dall'intervento di Bernardo Caprotti. Com'è possibile inserire la creatività e la speculazione nell'impresa? C'è posto per loro nel business? Posso dire soltanto che ho fatto due mestieri. In un primo, l'industria tessile di famiglia, era un'industria però dove si facevano tessuti di fantasia. E così per 15 anni, due volte all'anno, dovevo, in prima persona, naturalmente avevo molti collaboratori, preparare quella che si chiama la collezione. Beh, preparare una collezione ogni sei mesi è una cosa che soltanto chi l'ha fatto sa cos'è. Credo che il più grande maestro di questo argomento possa essere Armani. Io mi ricordo tanti anni fa una bellissima intervista sul Herald Tribune di Yves Saint Laurent, dove gli domandavano della sua vita, e lui descriveva la sua vita, bellissima, interessantissima, eccetera, ma il tormento, l'ansia della collezione, perché mentre tu esci con una collezione ogni sei mesi, estate, inverno, stai già preparando l'altra. E se no, mi ricordo che io lo capii in questa sua cosa, perché mi sono trovato per 15 anni a fare questo mestiere. Pomeriggio, almeno due o tre pomeriggi a settimana, mi chiudevo in una stanza con dei creatori, dei disegnatori, per creare la collezione. Dopo ho fatto il droghiere. Ecco, fare il droghiere è un mestiere molto diverso, però anche lì devo dire che mi sono trovato, certamente non a creare io, ma vicino alla creatività. Per cominciare, nel nostro mestiere la comunicazione è molto importante. Ecco che dal 1976 in poi ho avuto la fortuna di lavorare con Testa. Prima con Armando Testa, poi anche con Guidone, che era un uomo veramente intelligente, e lui mi insegnò, mi diede un insegnamento che facilmente, che mi piace dirvi, perché quando si fa della pubblicità, il problema è di riuscire, lo diceva sempre, in questo mondo invaso dalla comunicazione, dove tutti noi tutte le sere abbiamo inquinato l'inquinamento della comunicazione, riuscire ad ottenere due cose, un attimo di attenzione e creare un attimo di emozione. Ora, quando si fa la maionese, bisogna mettere in un vasetto, come fai ad ottenere perché c'è la parte, diciamo, pubblicitaria e poi il packaging. Con Armando Testa abbiamo fatto tanti le patatine dell'Esselunga, scusate, non sono qui per fare della pubblicità, ma le patatine dell'Esselunga sono state fatte da Testa e sono in un imballaggio, secondo me, bellissimo, perché sono le uniche patatine fritte, no? E gli chips, che volano, e la salsa di pomodoro spruzza, cioè creare quel piccolo movimento che crea un'emozione e quindi un'attenzione. Dopo Bernardo Caprotti è la volta di Ferruccio De Bortoli. Cosa significano le parole creatività e speculazione nel mondo degli affari? A seguire una domanda di Philippe Daverio, cui risponde ancora Bernardo Caprotti. Creativo e speculare nella finanza hanno un'accezione totalmente negativa. Nell'economia cosiddetta reale la creatività poi viene riscoperta. Nella finanza la creatività è qualcosa di così strano, di così avanzato, di così sofisticato qualche volta, che proprio perché sofisticato diventa incomprensibile, per cui alla fine può risultare ingannevole. Non è sempre così, ma il percorso mentale che si fa quando si applica la parola creativo alla finanza è questo. Non vi dico la parola speculare. Quello rappresenta, diciamo, una normale attività dell'uomo, anzi, una normale attività economica, perché speculare vuol dire in qualche modo capire bene la realtà che abbiamo di fronte e quindi reagire specularmente con una grande tempestività. Quindi chi è speculare è uno che è assolutamente informato, reattivo e conscio di quello che sta facendo in quel determinato momento. Purtroppo nella finanza speculare è diventato un aspetto negativo. Oggi si parla per esempio di tutta la speculazione che avviene sui mercati, per esempio legati alle materie prime, legati al petrolio. Ed è effettivamente una speculazione che sta mettendo in ginocchio, ma quegli operatori stanno facendo semplicemente il loro mestiere. E qui un po' si vede che c'è sempre, in particolare nel nostro paese, un certo atteggiamento di sospetto nei confronti di quello che è l'attività finanziaria, perché si ritiene che a volte l'attività finanziaria possa essere di per sé inutile se non negativa, invece è il complemento dell'attività reale. E quindi quando si applicano questi termini al mondo dell'economia e della finanza, si ha come prima risposta una risposta di tipo negativo. Però è assolutamente sbagliato, perché io credo che questa sera, ovviamente noi ci stiamo così traguardando su orizzonti ben diversi da quelli più ristretti del mondo aziendale, ma aspettava a me naturalmente portare la conversazione su questi temi. Ci soffermiamo su creatività e capacità anche di guardare la realtà in modo diverso. Allora, se devo rispondere alla tua domanda limitatamente a quello che è il settore dell'informazione e dei media, credo che una grande creatività sia quella di sforzarci di avere un modo diverso di guardare la realtà. Perché nella multimedialità noi abbiamo la sensazione di essere sempre testimoni indiretti di tutto ciò che succede in questo nostro mondo. E qualche volta siamo molto più esposti di prima, quando i mezzi di informazione erano più tradizionali, siamo molto più esposti ai luoghi comuni e a volte alle immagini false. Quindi siamo molto più deboli e costretti ad avere un pensiero unico quando ci sono molte opinioni e molte fonti di informazioni come adesso, di quanto non succedesse prima, 10 anni fa, 20 anni fa, quando i mezzi erano molto più rozzi e molto più rudimentali. Allora, la creatività si conquista, secondo me, quando c'è un pensiero laterale, quando c'è un modo diverso di guardare la realtà, quando qualcuno va dietro questa quinta e guarda cosa c'è dietro. Quello che manca, se vuoi, in questa società è proprio questa libertà di pensare con passione in un modo diverso, e soprattutto l'altro aspetto di accettare che ci sia qualcuno che la pensa in modo diverso. E quindi questo è l'altro pericolo. Qual è l'ostacolo principale della creatività? È il fatto che siamo spesse volte in una società come questa meno inclini di un tempo ad accettare un'opinione diversa, ad accettare che qualcuno vada dietro la quinta. Tu in quegli anni lì, 50, hai intuito che si poteva impiantare in Italia un sistema distributivo che nei confronti del pizzicagnolo della gorgonzola tradizionale era assolutamente innovativo. E credo che quando è stato aperto il primo dei supermercati non sembrava naturale, sembrava più una visione neoamericana che una visione legata all'Italia. Voglio proprio affrontare questi due temi: aver avuto la visione, secondo, aver avuto la fortuna di vivere in un'epoca nella quale le idee erano realizzabili, che è l'altro punto che Ferruccio De Bortoli ha appena sollevato. Oggi viviamo in un'epoca di conformismo avanzato. Nell'immediato dopoguerra il conformismo era minore? Ma devo dire che il mondo è cambiato in un modo incredibile. Certamente c'era forse più libertà. Oggi siamo un pochino la libido normandi, o la libido legiferandi da cui è preso il paese a tutti i livelli, province, regione, municipi, stato, eccetera, è pazzesco. Allora c'era forse un pochino più di libertà. Vorrei però, penso che sia interessante a proposito di creatività, tornare indietro a un mio ricordo lontanissimo, cioè quando, e non è vero che io inventai i supermercati, perché era Nelson Rockefeller che venne qua con la sua azienda e noi ci associamo a lui, poi le cose si evolsero in un modo diverso. Ma al momento in cui fondammo la società, chiesero a me che nome dare ai negozi. Loro volevano chiamarli Daisy, Margherita, non so, Giovanna, perché un nome, no? E io gli misi il nome supermarket, stupidamente, perché è una parola comune che infatti noi non potemmo mai registrare, quindi sbagliai sotto quel profilo. Però ero molto amico allora di un grafico di grande fama che era Max Huber. E io chiesi a Max Huber di disegnare l'insegna, e lui fece questo supermarket con questa tremenda S lunga. Passati alcuni anni, 3, 4, 5 anni, di supermercati ne sono solo altri. No, ma la gente cominciò, dice, ma quale supermarket? Perché supermarket è una parola comune. E la gente chiamò quel segno di Max Huber il supermercato con la S lunga. Ora, la grafica di Max Huber è quella che ha creato il nome di un'impresa. Come si può essere creativi nel mondo degli affari? Prova a rispondere Ferruccio De Bortoli partendo dalle esperienze dei due relatori presenti al dibattito, l'imprenditore Bernardo Caprotti, l'artista Michelangelo Pistoletto. Loro sono stati degli innovatori nei loro campi, nel senso che hanno sfidato il parere contrario della maggioranza dei loro contemporanei. Per questo che sono stati degli innovatori. Se fossero state delle persone... Sì, tutti e due. Che in qualche modo se avessero deciso di seguire l'onda, probabilmente, non so, Pistoletto avrebbe fatto il figurativo, probabilmente, non so, sarebbe andato anche su... Ma probabilmente avrebbe continuato a fare il tessile. Mi ricordo per esempio che negli anni in cui Caprotti cominciava c'erano anche multinazionali straniere che erano arrivate nel nostro territorio e che hanno miseramente fallito. Del resto poi anche il timing è assolutamente importante in tutte le attività. Bisogna essere innovativi e anticipare, ma non anticipare troppo, perché al momento del successo non ci si arriva in quel caso lì. E per esempio la storia non soltanto dell'attività industriale nel nostro paese è piena di idee precoci, molto precoci insomma, no? E quindi credo che tutto sommato abbiano sfidato il conformismo dell'epoca, non si siano accodati a quello che ritenevano fosse più tranquillo, abbiano in qualche modo accettato la sfida di lasciare un segno personale non solo nella loro esistenza, ma anche nell'esistenza dell'arte, dell'industria, del commercio, e anche con lo spirito di guardare al territorio, di guardare alla società, perché il successo è dovuto anche al fatto che c'è una società che lo consente, che c'è un ambiente culturale che lo rende più facile che altrove, insomma. Una delle grandi caratteristiche, devo dire, dell'imprenditorialità è quello in qualche modo di essere sempre, di avere sempre un rapporto generoso con il territorio, la società e la comunità che ha reso possibili straordinari successi in diversi campi. Questa è la cosa che un po' ci tiene insieme. Poi spesse volte le idee sono anche idee semplici, a volte sono, come nella lettera rubata di Edgar Allan Poe, così vicine da essere invisibili. Che nessuno le vede. Da essere invisibili. Talvolta sono straordinariamente banali e proprio perché considerate banali nessuno pensa di poterle applicare. Alcuni degli ultimi successi, delle ultime innovazioni non sono innovazioni che sono legate per esempio a un grandissimo apporto di tecnologia, ma sono innovazioni organizzative. Sono innovazioni per esempio nel modo di far vedere un prodotto. Guardate che cosa è cambiato nella vendita, per esempio, banalissima, dei salumi quando si sono fatte le vaschette e si è adagiata la fetta in una maniera diversa, oppure per esempio quando si è deciso di tagliare l'insalata e di renderla accessibile, piccola cosa ma è stata una grande idea, tant'è vero, una volta mi ha sorpreso moltissimo che un analista americano facesse quell'esempio dell'insalata tagliata e presentata in supermarket come un esempio di grande innovazione pari alle innovazioni che ci sono nell'industria chimica o nell'industria aeronautica. Se voi pensate a quello che è stata l'innovazione del post-it, che è un pezzo di carta con un po' di colla, però è stata un'innovazione straordinaria che ha cambiato tutto il modo di lavorare, no? Il modo di rapportarci con gli altri. Siamo diventati tutti più intelligenti col post-it. È tutto per questo replay dedicato al secondo di quattro incontri ideati e moderati dal critico, conduttore TV e giornalista Philippe Daverio sul tema della creatività. Un ciclo di incontri realizzati con la collaborazione del Sole 24 Ore e che Radio 24 vi ripropone a poche ore dal loro svolgimento. Il prossimo appuntamento è fissato a Roma per mercoledì 18 giugno. Radio 24 ne trasmetterà una selezione la sera dopo, giovedì 19 giugno alle 22:15. Buona serata.